E allora, stavo io. Non parli. Se per rumore. Aspetta, non sarà. Non sarà costretto e sarà stacco come sei la rotellina. No, ma non penso che sia, penso che stia facendo qualche durata. Cappagato. Ma comunque non lo so, Ottini, perché non sa annuncio. In più capace che domenica andrà al mare. Vabbè, scusami un attimo, ricordo subito. Toro di lato. Sovramodulando. Mi fanno tipo una pistola. Sovramodulate. Basta e basta. Mi schiaccio tutti. Non esageriamo, dai. Dipende dalle posizioni, come tu. Dobbiamo chiamare a te il settore di controllo, Antu. Come? Dobbiamo chiamare a te il settore di controllo. Evidentemente. Così è. Ma... ce n'è uno che è assoluto, è entrato ieri. C'è entra quello con quello che è lui e non fa vedere su la viso. Uno nuovo, ma stai dicendo qualcosa, un CB nuovo. No, no. È un CB vecchissimo, non un vecchio, un vecchissimo. Ma non di etanno, di frequenza, anni 70, 75, così. E Walter, dai, ha detto, se entra lui con le direttive del cuore, non vale da più nessuno. Vabbè, non v'è dubbio, perché ieri è entrato in 327. Ieri c'era una bella ruota, era una bella ruota ieri notte, io ho lasciato gente a mezzanotte e passa. Ho lasciato gente ancora parlando. Una bella ruota, veramente c'era un bel di gente. Chi era? E c'ero io, Fabrizio, Leoncino, Walter, poi è entrato Salvatore, è entrato un nuovo da Porto Torres, è entrato Gianluca, sempre da Porto Torres, insomma è entrato un bel di gente. Oddio, chi faceva il capomaglia? Lesi Pomponio. E diciamo che facevamo a passaparola, non c'era proprio capomaglia. Quindi a volte diceva riprendi tu già e poi pensaci tu a far girare la ruota. Io facevo girare e poi dicevo l'altro stesso così, non c'era proprio un capomaglia. Ma abbastanza ordinato come canale, ho visto che è andato bene, tranquillo. Non sono ancora andato a prendere un bicchiere d'acqua, aspetta un attimo. E vai, c'è quanto anche la faccia, tu ce lo consiglio. Tu quest'acqua di poco luna ti stai bevendo una piscina. Ciao, ben sentito, scusami, non pensavo ci fosse qualcuno. Salvatore. Ciao Salvatore, non ero quando. Ho sentito un battimento, là, stavo molto distratto. Buonasera. Caspita, sì, è vero, sto vedendo. Scusa, mi stavo provando l'accordo delle due antenne e non mi ero accorto però che avevo lasciato la potenza come stavo trasmettendo stanotte. È fatti un po' complesso, dai. Forse sia troppo ecco, Abbastanza. Abbastanza ecco. Adesso la puntina sotto fondo. Non possiamo fare troppo la radio 1, 2, 3. Come sto stando? Mi sembra un po' troppo pienotto, Un po' troppo pienotto. Aspetta, sto arrivando gli alti. Adesso questo gli alti più acuti, dai. Sono anche un po' rauco. Cappa, si sente la... questo gracchiare, non sapevo se era dovuto alla voce e quindi te lo trasportavi nella tonalità in modulazione o se era dovuto anche a qualche altra cosa lì nelle regolazioni. Noi siamo molto vicini, considera che io sono qui ai Cappuccini. Stai uscendo. Sono sentato male. positivo. No, ti stavo allarmando inutilmente, perché ho detto, cavolo, sta prendendo portante e non sta uscendo. No. Buona sua messaggio, ecco, come è la radio? Vabbè, solo un rauco, ecco, perché solo un rauco è raffreddato. E allora, se facciamo questa considerazione, la radio va bene. Ok. Ci sento da qua di casa, no? Sono qua ai Cappuccini. Tu dove sei? Mi sembri un po' più su. No, in radio siamo al Salteto, forse sono un po' più in basso di te. Sono un po' più in basso di te. Guarda, le antenne mie sicuramente le hai viste, le si vedono anche da Viale Umberto. Probabile, però sono... mi sfuggono, dai. Comunque siamo molto vicini. Che segnale ti arrivo, Salvati? Mi sembri un 40-45. Aspetta, ma te lo marchi, fa un passaggio. 45 esattamente, 1-2-3-1-2-3. Uscendo in questo momento con... aspetta, esattamente volevo uscire così io prima. Ok, sono con 10 in questo momento. Con 10 watt, attenuato RV3. Quando mi dai un po', si riesce a salire a 8. Considera che se ti metti sotto casa con una macchina attenuato mi puoi arrivare al massimo 9-10. E mi stai arrivando 8 pini. Però ci arriva, se no non ci arriva nessuno. 8 pini attenuato di 20 dB, se no sia di 20, sì. E K. Ma dobbiamo avere le antenne sicuramente a vista, Sicuramente ce le abbiamo a vista. La mia, se guardi anche dal ponte, si vede. Stai facendo il ponte, dai uno sguardo sulla sinistra, ne vedi due verticali, una delle quali ha due ralle, quindi sono sei tiranti in tutto. Vabbè, quello che ti rompe rimane più forte può essere Luca. E con Luca stacco il cavo e mi arriva a fondo scala. Positivo, siete proprio di fronte, dai. E io lo stesso così, chi arriva i più forti da Luca, se ci sei tu, però poi io le arrivo più forte. Ecco. Appa, registrato, sì. Ieri stavamo cercando di seguire il buon Domenico nella sua trasferta di Olbia con Pomponio. Maledizione, a un certo punto comunque, anche se ci siamo spostati di Panda, oltre Ardara l'abbiamo perso. Avanti il break, buonasera. Buonasera, Sanfede, buonasera anche a te Salvatore, Antonio Pupo a questa parte. Ciao Antonio, ben sentito, salve. Ciao Antonio Pupo, buonasera. Buonasera anche a te. Con cosa stai uscendo adesso come apparato? Io? K. Un vecchio Jackson, un presidente Jackson. K. E io c'ho il cugino, vabbè, è spento in questo momento. Io sto oramai usandone una sola di radio, in grosso modo. Usiamo un professionale, un K. No. L'MP, la via ESU. Positivo, ha accoppiato con che microfonia? Una cuffia della il sound, cuffia microfono. Positivo, dai. Esci ultimamente, io ho un microfono con un MV più 5, quello con i toni, con un presidente Jackson, quello con frontale cromato. Parecchio di vecchia data, ha molti anni, ma si comporta bene, là. Per l'uso che devo farne io, va bene, ok. Beh, penso proprio di sì. Mi sono sempre trovato bene, è stato il mio primo baracchino che ho acquistato e penso che lo terrò per sempre fino a che regge, cioè il Lincoln. poi sistemato ulteriormente da un amico della frequenza. E no, vanno bene, vanno veramente bene, mi ha dato tantissime soddisfazioni e non credo che lo cambierò mai o lo venderò mai. Antonio, facci sentire la tua. Poi vicino. Ciao carissimo. L'ho visto. Gaffa. No, non ce l'ho mai avuto, ma l'ho visto. Io ce l'ho avuto l'altro. Come cavolo si chiama? Washington ce l'ho avuto. E poi ce l'ho avuto anche un altro che non me ricordo. Kappa Antonio. È una bella serie, una bella serie di radio, che poi tra l'altro non so se sono ancora in commercio, se vengono ancora commercializzati questi prodotti della Presidente. E beh, Lucre, come va? Ehi, buonasera a tutti. Allora, c'è un bisogno, ho capito un po' adesso, si va a vedere a te, ma che cavolo c'è un po' non so di chi cavolo sono, dopo di Kappa, tu pensa che questo fine settimana sono sceso dal Torino, sono salito sabato mattina, sono sceso sabato notte alle 10:20 per mettere il mast all'HF per aggiungergli quindi un mast di 2 metri e sollevarla e avere finalmente il polo caldo con una luce rispetto al Torino di 3 metri e ho risolto il problema delle stazionarie. E poi chiaramente ho dovuto cambiare tutti quanti i tiranti perché la ralla al quale erano attaccati tre soli tiranti ovviamente in termini di altezza non andava più bene e quindi ho dovuto cambiare i tre tiranti precedenti e li ho messi nella ralla centrale per eliminare l'effetto pancia e poi nella ralla su in cima ho aggiunto altri tre tiranti, quindi c'ha 6 tiranti in questo momento. Però sono troppo contento perché ripeto sabato mi sarò fatto un mazzo e sono tornato anche tardi, domenica mattina sono risalito per bloccare meglio i tiranti e per trovare le giuste trazioni e distribuirle in tutte quante 6 le funi, però ho avuto dei risultati già veramente veramente soddisfacenti. Ho fatto dei bei collegamenti e sono veramente molto molto contento. È chiaro che ovviamente adesso si vede ancora di più, quindi è molto più visibile di quanto non lo fosse prima e te ne sei accorto di brutto. Si conferma. Allora, ripeto, io volevo questa antenna che non ho mai visto, mai, è tutto strano, questa antenna. Eppure lì erano solo le due, no? Si vede come io ho collegato a te, poi magari mi sbaglio, non lo so. Comunque guardi, posso dire che si vedono dal monte di Rosello? Sì, glielo stavo dicendo anche a Saverio prima. Si vedono da Via Pascoli addirittura, si vedono bene. Il discorso di queste antenne è che tutto sommato, a seconda della giornata e della limpidenza della giornata, si confondono comunque con l'orizzonte e quindi devi proprio guardare lì per sapendo che c'è un'antenna, se no altrimenti un'occhiata così di sfuggita non te ne fa vedere. Sì, vabbè, basta che fa un ottimo lavoro. Poi vabbè, ascolta, ma non ce l'hai più. Ce l'hai sempre. Sì, ce l'ho sempre, l'avevo messo in vendita, avevo avuto dei contatti, però non si sono fatti risentire e sinceramente poi mi sono un po' trascurato perché non l'ho rimesso in vendita nei siti, perché ero preso sinceramente da altre faccende, quindi non l'ho seguita. No, ce l'ho ancora qua a casa, l'ho provato proprio per fare anche la registrazione, ho fatto dei filmati che poi avevo uploadato nei siti che trattano materiale radioamatoriale per a corredo dell'annuncio. Basta, però, come dicevo prima, sto sostanzialmente utilizzando o l'HF o il President. Siamo dilungati un po' troppo noi, Olu, a dir la verità. Che... Ma cos'è, Palazzo Basso o Palazzo Alto? Che si affacciano sulla vallata. Marchinotti. Tutte, quelle che hanno le prime persiane blu e quelle che hanno le persiane marroncine, sono tutte case di Canada, tutte. E poi c'è quella, no, le marchinotti non si vedono, no, ma se con le prime che non le vedi. Comunque, superando quei marchinotti, poi c'è proprio verso quella ringhiera lunga che c'è, no, Berdolina, sulla Plassini, un attimino. è stata una giornata un po' pesante. Vado a distendermi un attimino e a recuperare un po' di forze. Mi lascio in compagnia, non so se Antonio Bombolo è rientrato, Anto? No. Ok, ciao Save, ciao Luca, ci sentiamo più tardi, dai, se coincide. Buon tutto e buon proseguimento. Allora, anche a te, un proseguimento, anche io, Marico, un po' e ci sentiamo più tardi. Ciao Save, a dopo, ci vediamo in Luca. Ciao, ciao, ciao a tutti. A più tardi, se coincide, dai, buona pinichella. Luca, li ha trovato, dai. Sì, a quella di Gabuga. Lo stai ascoltando? Sì, a... Senti, a ti, papà. Attenzione, salvi. Salvi. Animalo. Hola, attento Mario. Cosa sono? Sì, prova a frenare. Molla. Adesso vogliamo aprire. Ma quando hai frenato non si sapeva dove dovevi girare. Adesso hai messo la freccia a destra di posizione di sinistra, ma deve essere la freccia, eh. Secondo me è il rimorchio invertito, con i fili invertiti. Sai perché, Piaggia? Li ponticellano questi cazzo di rimorchi, specialmente la notte, quando fanno la navetta, quando non accendono le luci, prendono un filo da una gemella all'altra, e si fanno il ponticello. Però non si sa dove li collegano. Ah, ecco. Fregatene, tanto che sopra della macchinetta non fanno niente, male quelli che prendi al bar, quelli già fanno danno, eh. Dice che contiene più caffeina il caffè della caffettiera. Sì, perché è più sfruttato. Allora, la caffettiera, quando bolle il vapore, tende a sfruttarlo completamente, lo cuoce in pratica il caffè, l'hanno detto anche la televisione. Molto più salutare quello preso al bar corto, diciamo quello ristretto, che quello lungo, perché quello lungo dice che contiene più caffeina. Beh, comunque sia ce n'è di più in una tazza. Ma non solo per la quantità, è proprio il sistema di manifattura, capito? Io sono peggio quegli inglesi, cazzo, quando arrivano con sana eva, cazzo, cappuccino e penne al salmone. No, gli americani bevendo il caffè non li hai visti, c'hanno il caffè solubile e fanno, mettono l'acqua, poi ci buttano due cucchiaini di caffè, ma è acqua sporca, lo bevono la tazza intera, senza zucchero e senza niente. E loro lo prendono come bevanda praticamente, non è che lo prendono per come noi, insomma, per svegliarti, per cambiarti sapore alla bocca o queste cose qua, loro lo prendono proprio come bevanda. Ma che affa, cosa ti fai? L'avevano regalata una di quelle caffettiere all'americana, ragazzo, le fai un litro di caffè con due cucchiaini di caffè, ma vale la vita. E non ha sapore di niente. Perché noi siamo abituati al caffè che dava molto. Specialmente d'estate mi andava il caffè freddo. Dica, ma rientra a casa e non... Mi vedevo che tremavo, dicevo, cazzo, ma mi sta facendo come faceva in cucina, se devo essere stressato. E poi mi sono reso conto che era quel cazzo di caffè freddo che mi faceva così. Che comunque la caffeina sempre quella, eh. Sì, eh. Perché mi ricordavo quando ero su che prendevo il caffè, sicuramente lo faccio così, perché... Coca-Cola, ragazzi. tutte le prossime qua. Ma guarda, a me mi stai arrivando Santiago 9, la radio 5 è perfetta, bella chiara. Via. Ok, ciao Tom. Proseguo di serata alle prossime, ciao ciao.